fidati. Le truffe già le conosco, ci sono quelle che ti dicono dai vieni per dire in questo link eccetera eccetera, clicca questo link e vieni da me. E quelle lì sono le truffe, quelle lì ti fanno dei giochetti strani, a quanto so io. E avevano segnalato anche la polizia, avevano segnalato queste qui, ti chiamano, ti fanno denudare, loro ci mettono nudi, ti fanno denudare, ti fanno la foto e poi ti dicono se non mi paghi un tanto al mese per dire se non vado a dire che sei un pedofilo, questo e quell'altro, ti ricattano. E infatti non bisogna dare neanche tanto al resto. Bisogna dare niente tanto retta a queste cose. Gente deve essere rovinata, gente deve essere rovinata. La carità, la carità. Capito, bisogna essere svegli in certe cose, non bisogna avere il tempo. È normale che se tu ti buoni in una cosa, ti fai fotografare, è normale che tu questa qua ne approfitta, capito? Infatti in questo sito c'era scritto dalla polizia, c'era scritto mai dargli i soldi, perché se li dai una volta poi non te li tiri più da dosso. Sì, infatti. Cosa c'hai a Tyson che vuole uscire? No, Tyson praticamente ci sono delle femmine in calore, sente l'odore, capito? E sta sempre mugugnando per quello, perché sente l'odore delle femmine in calore. È positivo. A chilometri lo sentono, infatti a migliaia, a chilometri sentono la cagna in calore. Sì, anche con la finestra chiusa lo sento, capito? Con la finestra chiusa, richiudo la finestra, proprio niente da fare. Poi lo scendi giù e ti dico, lo allontani perché sono in calore. Allora, che non gioco in cercare, tutta la dica, più niente, povaraccio. Vabbè, lo allontano, lo vedo io. Se tu hai la cagna in calore, prendi che allontani, tu sei in un posto più tranquillo, mi devo allontanare sempre io, che discorsi sono. Ma infatti, l'altro giorno la mia compagna scese il cane e sentiva questo qua, dice vai non si innanda, alla fine si è rotta le scatole e l'ha detto. Ma sta dicendo a me? Sì, a lei, perché se lei non se ne va non posso slegare il cane. E lui gli ha detto scusi, ma il cane non lo può tenere slegato, prima cosa per legge. Il cane per gestirlo lo deve tenere legato. E lei non si preoccupi, lei se ne vada che così lo slego. Capito? Gente stronza, gente per poter. Perché descrivimi questo picchiere, che ci vado io. Per carità, lei se ne vada, tu te ne vai. Io te lo rimango con un cane, tu non esiste il cane e tu lo puoi tenere un'altra parte, repotenti. Sì, ma poi se li chiami le guardie zuppe le rimettono la multa, mi hanno già multato, c'è stato qualcuno che gli ha fatto la soffiata, c'era uno che veniva sempre col cane slegato, che tra l'altro quel cane lì è un bel bravo, è un cocker nero, e quando ti vede viene a salutare, ti fa le feste, e a tutti mi saluta, li va tutti incontro, gioca, fa pure una figlia, la lascia libera. Beh, sta che invece qualcuno le ha fatto la soffiata, è arrivato il zuffine e gli hanno messo la mula. Oh Gianni, ma per caso ti sto arrivando al mezzo al QRM io? No, perché? Perché quando stai parlando a volte è come ti arriva nel mezzo al QRM. Io? Sì, attacca. Perché sono col piccolo, sono con quello che esce con 4 vani. Attacca io. No, aspetta che attacco l'altro apparecchio. No, non attacco, mi cosciuva giù. Guarda con questo, capito come arrivo. Tranquillo. Questo qua è il Galaxy, dai. Com'è perché c'è un po' più fatte, capito? Se c'è QRM magari mi copri. Io ho QRM a 9, io qua, 995. Ah, vero? Come mai? Cosa ne so. Questa è una zona di merda, scusando la parola. E viene a casa QRM 1. 1-1 plus. Ci sarà qualche pompa di calore. O anche lo squelch un pochino alto, perché altrimenti mi va a dire un cabacca con capace. Infatti sento solo a te, non sento, sentivo a Luca, a te, ma vuol correre altissimo. Tutta la zona questa, zona di mare, zona è tutto un casino nietro. Kappa. caso, è un caso, e non so cosa fare, le ho provate tutte, messa a terra in antenna, ho provato il canto di terra deficiente, ho fatto la zona strana, ho a 20 metri, ho la cabina elettrica, mi passano in tutti e tre lati, a 10 metri da me mi passano cavi elettrici. Dai. Capo, c'è dentro un altro condoro, avanti Marco. Marco, entra. Scusate, sto facendo qua roba e nel frattempo c'è il baracchino acceso, ci sarà qualche pompa di calore, quelle cose strane mi. Ecco. Io magari non sono a quei livelli, però Santiago 5, qua il QRM arriva. Poi dipende dal baracchino, L'altra notte c'è stato a una certa ora, tipo alle 11, col presidente McKinley, che pure è rumoroso, c'è stato questo attimo di calma piatta, non questo attimo, un'oretta di calma piatta che era quasi surreale, cioè era sparito il QRM, sentivi a malapena il soffio del ricevitore, ha detto ma cosa è successo qua? E invece era tutto a posto, semplicemente si era tutto calmato, probabilmente non c'erano pompe calore, coso, climatizzatori, vabbè già hai capito, riscaldamenti vari, elettrici. Saluta Gavino che non mi sentirà. Io sto facendo roba, vi ascolto. Ciao Gianni, ciao. Ciao Gavino, ciao gli ascoltori. Lo senti Gavino? Buonasera. Sì, mi ha copiato. Ciao Gavino. Qua è discretamente rumoroso, ma non mi posso lamentare. Però 9 sembra proprio al di fuori del normale. Probabilmente è qualcosa di elettrico, di grosso. Hai detto che c'hai, cosa c'è, un trasformatore dell'Enel vicino? Sì, positivo Marco. Diciamo 20-30 metri in linea d'aria c'ho una cabina elettrica, poi mi passano i cavi di elettricità di tutto, diciamo, di tutta la linea delle campagne, qua mi passano diciamo a est della mia casa, passa il cavo, tutti i cavi elettrici, poi mi taglia a sud e poi mi continua dritto e poi mi trovo anche a nord, mi trovo tutti i cavi, io sono circondato dall'elettricità, sono circondato dalla roba elettrica, quindi molti ci occorre anche a 9.15, ma l'antenna messa, un bel pianto rimasto a terra in antenna, ho un casino nero. Gianni, sai dove è anche Gavino, dove è anche un po' rumoroso, abbastanza rumoroso. Allora in campagna, in zona Bancali più o meno, no? E lì praticamente c'è un traliscio all'alta tensione, passa il cavo dell'alta tensione, non dico sulla verticale ma quasi, praticamente sulla verticale. Quindi anche se sei in macchina col baracchino o con l'HF, insomma col ricevitore, quello che è discretamente rumorosa la zona, è un macello. Ma tu dovrai fare anche i semafori, se ti fermi al semaforo dà fastidio, capito? Fa QRM. Sì, tutta questa roba elettrica, LED, non LED, switching, non switching, tutto un macello, tutto questo sciabotto, se tu ti ricordi negli anni 80 non c'era, lì la notte era, il QRM era zero, non ti rendevi conto nemmeno se il baracchino era acceso. E adesso è diverso, molto diverso. Qua QRM, grazie a Dio, non ne ho quasi nulla io. A volte quando è proprio alto è a 2, 2, 2.5, dai, non ne ho mai forte QRM. Più che altro è quando c'è propagazione. Poi. Sento propagazione che fa, oia, oia. Ho detto, dipende anche da baracchino a baracchino, ho già, il più silenzioso è il 3009, come sempre. Questi qui invece tutti, tipo questi presidenti SMD, sono una fabbrica del rumore, raccolgono rumore, dai, non è che lo fabbricano, lo raccolgono, cappa, vai Gabri, bianco per me che sto facendo roba. Vai, tranquillo. Sì Marco, no, a volte, guarda, per fatto che questa frequenza sta diventando un casino nero. No. Non ti dà neanche più un gusto a prendere e a rimanere a fare ascolto, almeno qua nella zona dove sono io, è un problema, non ho capito cosa devo fare, cioè, ma non posso neanche spendere antenne soldi in antenne elettromagnetiche per il QRM, assolutamente no. Eppure adesso sto usando un apparato che è abbastanza dritto, te Gianni, dopo le propagazioni i gavetti hanno quasi coperto a tratti. Oppure già hai notato che siamo in pieno inverno e la propagazione non è mai sparita del tutto? Sì, l'ho notato, però la propagazione dall'Inghilterra, America, roba del genere, non è propagazione normale, dai, dall'Italia, eccetera, eccetera, viene dall'estero. Ciao Marcolino. Ciao Natale, ben sentito anche a te. Eri in ruota o in ascolto? No, in ascolto, che sto per mangiare il brodino di mammo. Appetito allora, dai. Gianni, riprendi, bianco per me. Poi già, quando posso riprendo, ciao. Sì, dai. Devi capire che cos'è questo rumore. Potrebbero lasciare anche le pompe in casa, tu pompe di pantaloni usi in casa. Sì, ma è spenta adesso, non è che c'ho, non è accesa. No, ma no, addirittura la mattina. Comunque, la cavella! Giornata che va. Che va quasi in debitezza. Tutto spento, fate le prove, tutto spento, la radio accesa. E vi va questa alternata sia nello schermo della telecamere che nella radio. E dura un'ora. Il genere dura dalle 6:30 alle 7:30 come in un quarto, qui sparisce. Cioè assurdo. Ah, un'altra cosa. Per vedere se il QRM è generato da dentro casa, stacco il contatore un attimo e vado a batteria e non cambia nulla, il QRM non è da dentro casa, non è roba mia, capito? È roba che arriva all'antenna dagli altri palazzi, capo. Ciao Luca. Ciao Marco. Ehi, riprendete. Con la batteria non è roba mia. Roba di aria. Capo. Sì, capi. Bisogna capire che cosa sia, perché se sono le gabine dell'Enel che ti danno fastidio, potresti anche chiamare l'Enel e dirgli di metterle a posto se c'è qualche cosa che non va. Ho provato con la batteria, ho attaccato la radio alla batteria con l'aspetto antenna, uguale, non cambia niente, è roba generata dall'aria, Ma secondo me proprio sono scariche elettriche, sono delle scariche elettriche che emanano i cavi di alta tensione. C'è qualcuno sotto già? No, negativo. Sembrava qualcuno sotto, infatti non ho parlato per quello. Sì, infatti sono scariche elettriche. Siccome ogni tanto qua rimaniamo senza luce, noi no? Sono i cavi vecchi, l'altra volta meno male c'erano le radio spente e c'è stata questa bassa tensione, guarda, me ne sono accorto ero in garage e me ne sono accorto perché mi si è abbassata la luce, cosa sta succedendo qua? Infatti sono entrato dentro. C'era questa la luce di cucina ballerina, cosa. Bassa tensione, è durata un paio d'ore, poi sono venuto, l'ho riparato e è sparito tutto. Fai venire Capitan Ventosa e te lo trova subito da dove di pe. Oh Gavino, buonasera. Ciao Eugenio. Ehi, sono fatto un'informazione a Gavino, poi mi stai dicendo l'antenna del camper? L'antenna del camper, sì. C'era un amico, quella con la carica sotto, confermi o cosa? Se per carica intendi la molla, c'è una specie di molla, là, una carica, sì, quella lì. E poi è un tronco nero, c'è uno stilo nero, diciamo. Là. Oggi tu guardate una c'è stazionaria, un bel culo, perché è impossibile, io questo amico col camper l'ho copiato, ho visto quando passi da Valle d'Uria, venendo diciamo a Porto Torres, c'è la salita che c'è, passi dentro la galleria e poi usci dalle gallerie, da quella galleria unica dai. Da lì mi arrivava segnale 5, però la radio era comprensibilissima, la radio di 4-5, l'ho accompagnato fino a Porto Torres con quell'antenna lì. E tu, cioè, è tu eri a Città Mercato e non ti sentivo, è un po' strano, eh? Sì, ma vabbè, tieni conto che io sto uscendo tre vacche dal campo, capito? Non ho grandi potenze dal campo. Poi dimmi, personale, come faccio a sapere le stazioni se non si possono regolare i stazionali, capito? Chi l'ha detto? Questo qua esce lo stesso con un baracchinetto, con un Midland, quelli fini, non ha lineare, non ha niente. Chi l'ha detto che non si può regolare oggi? La puoi regolare davanti a quell'antenna lì. Se ha la carica la puoi regolare stazionari. No, assolutamente no. Dai, magari un'antenna diversa. Però quella che ho io è fissa, l'ho controllata, sono praticamente quelle che usano i camion, come si chiama, originali del camion, è tutto regolare. Cioè l'antenna è tutto uno, capito? Pelo, filo e antenna, filo e carico, è tutto uno, non c'è niente a regolare. Tipo antenna autoradio fa. Poi c'è anche la massa che non la fa bene. Esatto. Beh, l'amico mio di Porto Torres è... Aiuto, prendete il baracchino, buonasera. Una piastra incollata, su, capito. Via Giovanni Lasci, spiavi. Ciao Tino. Buonasera a tutti. Che lo buco, mi parli con uno, eh? Mi parli con uno, per schiattare. Ciao Tino. Mi casino, me. Ciao Eugenio, ciao a tutti, ciao. Dai Gianni, che sennò dopo qua facciamo casotto. Dai, c'è anche Gavino, dai, lo facciamo venire avanti per salutarti. Avanti Gavino. Che sta andando via, Tino. Va bene, ho visto che lo sono bevuto. Oh, sto guardando su eBay, un Rolex Submariner. Late, vabbè, 26.500 euro. Cavolo, c'è cazzo un rilosso, 26.000 euro, che la cavolo va? Ma con una cazzata. Ma dai, cuocomane. 7.500 in negozio. Quindi, ciao Natale. È una cazzata, c'è la... Bravo a tutti, no, però non posso parlare, mi sta mancando la voce, dai, mi ascolto. Luca, sta passando con il consigliere Luigi quello. Cosa? Non ho capito, allora io lo sento un po' basso, se non lo metta il correbbe ciò sotto, lo sento un basso. Dimmi Tino. No, non ho seguito quello che stava dicendo Eugenio, però te lo stavo spiegando. Allora, sto dicendo che il Submarine, il negozio a Sassa, costa 7.000-7.500, ma non quella cifra lì, è sicuramente una fake quella cosa lì, capito? È una truffa. Ah, già può essere, ce n'è più di una. Hai sentito Luca? No, lo sento basso in radio, c'è un po' di QRM, se non aumenta, non so se lui mi ascolta, ma lo sento basso. Vabbè, ti parlo poco, praticamente quello voluto, il negozio costa 7.000-7.500, ma fai anche 8.000, quello è un fake. Tutti subito. Cazzo, ce n'è uno da 20.000, uno da 18, praticamente dice che il quadrante... Allora, Rolex 40 mm, SSS, Submariner, lunetta in ceramica, quadrata e verde. Cazzo, 20.000 euro, costava 32.000 euro. Cioè, ma sono un paio di un ridosso. Cazzo, 80.000 euro mi vengono a casa, non un ridosso. Che poi diciamocela tutta, non solo questo granché di orologi come estetico. Ah, non mi tocca il Rolex. Mi dico di un Rolex, allora io capisco il Rolex Ferrari, il Rolex Daytona, allora sì, si aggirano su 18, 17, ma il Submarine è il modello base, che abbia il quadrante rosso, verde, bianco, non c'entra nulla. Cioè ce n'è uno 39.000 euro, 39.500 euro, cioè 40.000 euro un riduzzo, ma insomma buffonendo cosa? Cosa da pazzi, 40.000 euro, 80 milioni, ma quelli da fianchi. Mica lì è finita lì. Lo fanno solo per fare gli spremi di quelli che c'hanno su, di per buttare su, di spremi. Perché per me come estetica, a parte qualcuno, non mi dico nulla, io ho avuto collezione di orologi di tutte le marche, capito? Però Rolex non ho mai avuto, non perché non me lo potessi permettere, perché qualcuno l'ha potuto anche comprare, però non me l'ho mai comprato perché non mi piace. Rolex, lasciate il mio. Ma io li conosco bene, Rolex, conosco molto bene, fidati. Sono signore Rolex. Va bene, signori, dai, io vi saluto, vi devo fare cosa. Ciao a tutti, ciao. Ciao G. E vabbè, io ho avuto, ne ho avuto diversi di orologi, che sono signori orologi lo stesso, l'orario non sgarrano di un secondo, per cui cosa mi interessa spendere tutti quei soldi, è solo per fare gli spavaldi, per far vedere che c'è un orologio che costa tanti soldi. Ma vabbè, aspetta che salutiamo il genio prima, poi facciamo quello, io ho un Casio Urus Malucus, ti devo girare. Ciao Eugenio, un abbraccio, ciao. Ciao Eugenio, ci sentiamo alle prossime. Ciao Eugenio. Ti dammi quando c'è il tempo libero, ci vediamo, dai, ti faccio vedere l'antenna com'è. Perché ne ho un'altra uguale identica. Quando me ne ho altro due, ne ho un'altra in garage uguale identica. Vabbè, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti, buona nottata. Ciao. Al contrario, il piano di massa di quella roba lì. Dobbiamo controllare bene il piano di massa, anche se sembra, però bisogna controllare bene il piano di massa. E vedrai che è quello. È un impianto fatto dalla casa, eh? È un impianto fatto dalla casa, quindi c'è un filo attaccato alla piastra che va a fare massa sicuramente. Vabbè, già, senza, ciao. Capito, io c'ho cheat, c'ho, come si chiama, da diversi tipi di orologi di marca, però non li ho pagati così tanto, dai, 180, 350, l'altro, il Sector, l'ho pagato 350 euro, già lo sa Natalino perché l'abbiamo comprato insieme, se ti ricordi Natalino. Sì, anche io sono di quella stessa lì, ma da ragazzo lo portavo, oggi no. Oggi per dire il mio lavoro stavo sempre lì a togliere, a mettere anche amici e amici di bracciare, insomma, con un interesse a fare sì un uso, se devi uscire, non sono più abituato a averli addosso. No, a pare mi sa che sia in Gorix, però non può parlare a quanto ho capito. Ehi, ha detto che sta mancando la voce. Io per dire, c'ho anche un Jean-Paul Monet che costa un po' di soldi, è fino ed è color oro, tutto quanto, sia all'interno che all'esterno, ed è di quelli ultra sottili che si mettono con l'abito, per intenderci, io c'avevo l'orologio per ogni occasione, e più c'avevo tutta la collezione degli Swatch, quelli Scuba, Crono, tutti quelli ce li avevo tutti, e la collezione intera me l'ho venduta, ho fatto una gazzata ma me l'ho venduta. Ah sì, erano belli anche quelli, non costavano tantissimo, però erano belli, e non sono un grande collezionista su queste cose, però. Io ho anche una cipolla che a sua volta avevo regalato a mio padre al compleanno, però non l'ha mai, non l'ha apprezzata, forse non lo so, ha detto io ce l'ho l'orologio sul polso, che cosa me ne faccio della cipolla, tienila tu che magari ti serve, e non l'ha voluta. E c'è anche la catena d'argento e tutto quanto, quella lì è una bella cipolla, però non ne uso io, capito? Anche l'ho avuta una. La butta era anche importante, poi parlando così siccome io, ci ripeto, non ho preso queste cose qua, però c'era un mio collega di lavoro, ormai in pensione da qualche anno, ed era appassionato di queste cose qua. Guarda, si è messo anche a piangere, sorpreso, però ti faccio un regalo, ma quando l'ho vista mi sono uscito di lacrime a questo signore, però ma tu sei sciolto, ti regalo. Io guarda, mi ricordo che avevo fatto uno scambio con Natalino, avevo dato una cipolla delle ferrovie dello Stato, quelle che usavano i ferrovieri, tutto. E lui mi aveva dato un flash per la macchina fotografica di quelli importanti, di quei mezzi. E praticamente non so se poi se l'ha venduto, non lo so, però gli era piaciuto molto e gliel'avevo dato. Bene. Galvino. Qua guarda, io orologi neanche ne porto, io al polso non sopporto niente, non sono mai stato appassionato di orologi e queste cose qua, ne avevo preso due dalla Jack Daniel da internet, avevo pagato un pacco di soldi, un euro l'uno, e te la dico una cosa, già le ho presi 5-6 anni fa, sono a carica, no, sono a corda, da Amazon le avevo presi, e 5 anni fa le ho presi, come ti vedo a mezzo giro sono camminendi, c'erano proprio la scritta, sono dando il cinturino, sembra pitonato, uno nero e uno blu, uno con la cinghia nera e uno con la cinghia blu, Jack Daniel. Cioè quelli fra 50 anni sono orologi del Valgo, perché secondo me non li ha comprati mai nessuno, orologio di alcolizzato, no, io non ne sopporto al polso, io neanche bracciali, neanche collane, niente. Io c'ho tutto, c'ho bracciali, collane che orologio. No, io niente, non sopporto nulla, neanche anelli, che prenditi. Sì, se non sbaglio c'era anche Luca, dai Luca, questo è peggio di entra, esce, una cavalletta. Perché su TikTok, capito, sta facendo la live su TikTok, magari ci fa sentire anche a noi parlando, eh? Ah, così è. No, magari no, però ha detto che non sa che pesce prendere, perché un po' lo chiamano da TikTok, un po', capito, deve venire qua, quindi si sta dividendo in due. Oramai già, ha preso piede. Sì, un po' tutti siamo così, Tino, anche noi che abbiamo cominciato da grandi a usare queste cose. Mi piace, non mi piace, io ti dico la verità, quando non so cosa fare mi accendo il telefono, me ne vado su TikTok oppure me ne vado su Star Macchia dove si canta e facciamo i contest, tutte queste cose qua, oppure entro nella stanza, ci sono le code, no, devi aspettare quando ti tocca e ognuno fa la sua canzone. Ah sì, no, non lo conosco. No, io, vabbè, non nego che qualche volta vai su Facebook così, perché poi ci sono quelle vignette lì che fanno cagate, le guardi con due risate. Sì. Sì, poi non so se hai visto, se te l'hanno mandato, il Superman di Sassari, in capo, si è messo praticamente dietro la bicicletta, si è messo i fuochi d'artificio, si è fatto tutta la zona del Sacro Cuore esplodendo, pum pum pum pum, con i fuochi d'artificio che saltava e lui guidava la bicicletta, perché ha rischiato. Sì, il Batman, di notte, l'ho visto. Quello ha rischiato forte, cazzo, se qualcuno gli andava storto di fuoco artificio mi dava in più. E vabbè, sono di quelle che salgono in verticale, vabbè, non è detto che va tutto bene, però è un tipo, vai. Ogni tanto si rivede i gatti d'una di Gosh. Oh, yeah. Ne ho visto tante da ridere proprio, da ridere. Ci sono tante di queste cose, poi scopri cose nuove. Io, vabbè, l'ho detto già altra gente, io di notte mi guardo l'occulto e scuro, mi sta appassionando, mi attira. Sì, di cosa intendi però? Un attimo Alghero, praticamente cosa intendo, Tino? Sono dei ragazzi che vanno in queste case abbandonate oppure in ospedali, in asili eccetera eccetera, abbandonati, e parlano con gli spiriti praticamente, dai, con l'entità. Ah, ho capito. Vabbè, fa entrare questi Alghero, io non so se lo ascolto, io non l'ho sentito. Avanti Alghero. Male Mirko, non stiamo arrivando bene, la radio non è chiara, per lo meno. almeno da me così è confusa, è come se fosse fuori frequenza addirittura. Tino, vai avanti, dai, e così lo saluti e poi fai venire avanti a Gavino. Sì, buonasera amico, ti ho ascoltato, sono 034 in mezzo al DRM, quindi non ho capito bene cosa state dicendo. Grazie a Gianni ho saputo il tuo nome, il tuo nome nativo, però non sono riuscito a capirti. Mando avanti a Gavino ora per i saluti. Ciao amico, ancora un abbraccio. Vai Gavino. No, non ho copiato nessuno, non l'ho copiato il DRM Audio. Comunque buonasera Mirko, se Mirko ti copio solo io. Adesso ti faccio un esempio, presente quando senti qualcuno di splatter, così ti ascolto, non ti sento chiaro come radio, capito? Sembri di splatter. Sì, ma da dove sta chiamando Mirko? Ho capito, cosa sta usando, che antenna sta usando, che radio sta usando, non è va a trattenere una Google anche qua arrivi dalla riera in Ocano? No, c'è un'altra antenna, che antenna c'hai Mirko? Una mezz'ora. Ciao. Scusate ragazzi, una bassa. Vabbè Mirko, ti devo salutare, dai, io sto andando via, non so se gli altri ti sentono, ti saluto perché devo scendere giù a portare giù il cane, dai. Ci sentiamo, ciao Gavino, ciao anche a Tino, io sto facendo QRT, causa passeggiata, dai, passeggiata obbligatoria, non aggiungare. Ehi, io già sono qua già. Capa, tanto sta rientrando Tino, dopo la telefonata rientra. C'era la partita con la croce, sono dovuto andare a Capri, accompagnare Gabriele, una cosa e l'altra, ci sono pensato presto. Avevo la possibilità di dormire un pochino di più, invece l'orario che abbiamo in testa ormai è già programmato, quindi alle 6:30 è già operativo, con la possibilità di dormire sino alle 8:30. No, io stamattina sono stato alle 8:15. Mi sono preso e stamattina sono andato a tardi, ci sta a fare un po' di spesa sulla produttore, però a casa si stava con il garage e poi mi sono bucato e adesso con il garage mi sono nel divano che sta, diciamo, in camera e niente, e siamo qua. Stanno pensando anche a c'è un altro grande piatto. Stiamo parlando proprio di questo, sinceramente. Però guarda, prendiamo il pizzetto, vediamo un po', io sinceramente non ne ho voglia. Andare. Prima una curiosità, capire, la radio come ti sembra di questa? Sta non in sottorazione o meno? Aspetta, faccio una regolazione. No, dovrebbe andare bene così. Vedi un po', così mi dai anche il segnale. Allora, aspetta. Buon passaggio. Vabbè, la radio se non ha cambiato, mi interessa più quello. Poi il segnale è relativo, però già devo avere uguale. Allora, qua da me 6950, 6950, la radio è fortissima, infatti ho passato anche il volume, si sente che è forte, segnale 950 fisso. No, dico non distorce, non vai saturazione, a parte i rumori familiari, diciamo, tra virgolette. No, si sente, diciamo, che stai pompando, si sente che stai pompando, sì. Che stai uscendo forte. Sì, il fine settimana lo faccio scaldare un po', se no si offende un po' per gli altri. No, va bene, un segnalone, ti capisco benissimo, magari cosa ne so, a Santa Teresa ti portiamo bene, sì. No, già va bene, dai, ma tu non hai mai avuto problemi di chiarezza del radio, poi noi siamo anche vicini, non c'è problema. No, vabbè, non dico quello, no. Sotto Teresa neanche ci arriverò sicuramente, però è giusto per farlo pompare un po'. Poi differenza di modulazione con un punto all'altro suppongo che ci sia, ma non mi interessa, è lui che non sono due gemelle, quindi. No, va bene. Io con questa qua sto facendo 15 watt. Non glielo tiro al collo, 15 watt sta dando, 15 watt e 23 modulati. Ma Gianni è andato via? Gianni è andato a portare giù il cane. Qualche giorno facciamo una prova in CRM. Sì, oggi non fa però perché da un momento all'altro devo andare, se non vuole riuscire devo andare a prendere sia a Gabriele che il pizza, quindi devo, se non mi senti magari stiamo durando con altra gente, vuol dire che sono scappato. No, oggi no, però che giorno facciamo qualche prova, che ho messo la X510. Devo prendere una X510 e la montare. Adesso vediamo se è una settimana. io adesso ho la X, non la X300, la X30, quella corta, quella piccolina, cos'è? 1,70 m centimetri. Adesso ho quella. Io ho lasciato quella. Sì. Sì, sì, perché la 500, la 710 è insomma una antenna più per altre frequenze, 135, 330, insomma, quella che serve a te è quella che stai utilizzando. Cosa dati? Certo, quella che serve a te è quella che stai utilizzando, va bene quella lì? Sì, sì, sì, sì, no, adesso ho quella giusta. Avevamo fatto delle prove l'altra volta, ti ricordi, però ero col, diciamo, col portatilino, poi avevamo fatto delle prove con la Linco, però adesso l'ho sollevata, adesso sì, ho sollevato il palo, voglio vedere un po' come, però quando sarà, quando ci sentiremo, faremo, se ne vuoi. Sì, sì, non c'è problema. No, io avevo la 210, ti dirò la verità che andava bene come, poi l'ho dovuta cambiare perché, vabbè, mi hanno fatto un regalo e l'ho sostituita, però ho visto dei cambiamenti, cioè proprio quella frequenza lì, giustamente, non va benissimo, ecco, per quello che sto già dicendo, però fare delle cose non costa niente. Sì, sì, sì, no, vabbè. Devo prendere peraltro perché voglio mettere a posto di questa discona, perché mi sta facendo impazzire, questa discona mi sta facendo impazzire, la prendo, la taglio, la faccio a pezzettini, quando la tolgo, la voglio mettere per ricevere, diciamo nel ricevitore devo mettere due antenne, devo mettere una VU buona, una VU buona e poi un'antenna per i satelliti. Ma siamo chiari. Bene, bene, bene, sono contento per te. Ti stai appassionando anche i satelliti? Cosa? Sì. Ma non mi senti? Sono a male. Adesso sì, un pochino, perché sei molto alto, ti vedi come sta scaldando quell'affare, a volte sta un po' andando a saturare. Non ti ho detto nulla perché ho detto magari sta regolando e niente. Se non stai regolando, magari come sta scaldando adesso sta andando un po' a saturare. Ora, ha cambiato qualcosa? Sì, sì, sì, ha cambiato, sì. Ha cambiato molto, forse si abbassa anche la preamplificazione del microfono, è ancora meglio. Abbassiamo. Ecco qua, adesso ho abbassato anche l'amplificazione del microfono. Ok. No, vabbè, voglio provare questa cosa delle, diciamo, per ricevere questi satelliti, stavo leggendo su internet e ci sono tutte le cose per provare, capito? Beh, sì. Ma vabbè, ti ho fatto una domanda, ti stai appassionando ai satelliti? Mi sta prendendo questa cosa per i satelliti. Con il ricevitore adesso devo farmi qualcosa di internet, quindi, ma sempre piano piano e senza fretta. Solo ci vuole un'antenna bella massiccia, una bella parabola su. Ma guarda, io sinceramente non l'ho seguito questa cosa qua, però c'è un amico che invece ci parla, se vuoi poi avremo modo di, ma cosa lo facerai anche, quindi di sentirlo e vedere, tirava anche dritta, ecco. Sì, sì, anche qualche consiglio, capito, anche qualche consiglio, perché mi piacerebbe fare questa cosa qua. Io vado da parlare molto così, dai, di verticale. Sì, sì, comunque già ho capito perfettamente. Dino, guarda che se servono a qualcuno, sto dando dei tralicci. Misure e altezza. 30 per 30 e altri 4,20. Sono due pezzi da 2,20. 30 per 30, triangolare. Ah, roba piccola, pensavo era una cosa un po' più importante, tipo l'atto 60x60. No, 60x60 no. Ho del 40x40, 24 vetri se ne vuoi. È sempre piccolino quello di, l'ho sempre ancora fatto bene. Vabbè, posso chiedere? No, ma senza impegno, cioè se lo prendo, se no rimane in garage. È perché non lo uso. È quello verniciato. Elettrostatico è nero, capito? È verniciato a polvere elettrostatica, infatti è nero. Quindi ho usato, era in una discoteca dove c'erano delle luci accese, delle luci appese, ed è nero. Fatto apposta, se lo carteggi rimane sempre nero, non diventa cromato. Non lo sto usando, ho detto se serve a qualcuno glielo prendo, altrimenti rimane lì, non me ne crea fastidio. Capito, io guarda, sinceramente non mi interessa in particolare, nel senso che mi piace, però non sono direzionato a fare delle attività lì, capito? No, capito. No, niente, ma niente di coso, ho detto se senti che qualcuno è disperato cercandolo che vuole il traliccio, sai a che rivolgerti, e se non le serve roba, diciamo, tipo gruedile, sai chi potrebbe averlo, mi segui. Ma non è che mi interessa venderlo, non mi ne affitti nulla, cioè a titolo informativo, se c'era qualcuno potrei darlo. Va bene, dai, mi hanno chiamato. Va bene, Gabi, se trovo qualcuno mancherò, già ci sentiamo, nel caso. Ok? Beh, ti devo lasciare, devo uscire per forza. Ciao, sì, buona serata, ciao. Nel caso dopo ci si dà, ciao.